in onda Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, alle riprese video Valeria. Emozione. L'emozione non ha voce, Enzo. Allora, Shabalon. Shabalon. È il 14 ottobre 2016, una data qualunque per molti, ma non per noi. Allora, la prima serata di una nuova avventura. Esatto, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che abbiamo un nuovo format. Siamo un nuovo programma, siamo in diretta. Video sulla nostra pagina Facebook, che salutiamo, ringraziamo Valeria che fa le riprese. E siamo anche in diretta audio, che poi andrà invece registrata con un podcast, sempre da domani, sempre sulla nostra pagina Facebook. E la cosa importante è che questo nuovo programma si chiama Shabalon, sempre curato da Enzo, Marcello, Simone vabbè, per quello che riguarda, attiene la parte musicale. È qui. E la cosa veramente importante è che trasmettiamo da un locale meraviglioso, quale la Costa di San Rocco. A Foiano. Allora, per ora basta. Ora andiamo con un po' di musica, ma noi rimaniamo in diretta e poi parleremo con i nostri ospiti, perché comunque Shabalon è un programma interattivo, che parla, interattivo. Tant'è che abbiamo già 5 amici che ci stanno guardando e che poi ci chiederemo. E chiunque vorrà anche partecipare non fa altro che montare in macchina, salire in macchina o uscire in piazza e venire qui da noi. Fino alle 23 siamo ma qua. Ma poi approfondiremo. Musica per ora. In prison, breaking rocks upon the ground. Suddenly a free man, making up a waste of time, and heading back to New Orleans on a Greyhound bus line. A poor boy didn't have a dime. I walked into a restaurant looking for a job. The chef said we could use someone to clean up all the slop. It's $7 an hour minus taxes, no paid drink. I said, you got to be kidding, man. That's less than a slave makes. Well, this is how it is, baby. Oh, the poor boy blues can't get no relief and keep the shoes on his feet to keep his feet off the street. Oh, the poor boy blues can't get no relief and keep the shoes on his feet to keep his feet off the street. Down the road to meet this little girl I knowed. She'd been working overtime over at the Hungry Toad. I asked her if she wouldn't mind sharing me a bed. She said, you must be crazy, kid, you ain't bought me nothing yet. Well, that was true, I must admit. I saw three little birds, they were sitting in a tree out by the front porch of a local fraternity. I asked him, hey there, brother, you think you could spare a beer? They spit it in my face and said, man, who do you even know here? Well, I didn't know a soul but Chad. Oh, the poor boy blues can't get no relief and keep the shoes on his feet to keep his feet off the street. Oh, the poor boy blue can't get no relief and keep his shoes on his feet to keep his feet. Oh, come on, Don. Oh, yeah, baby. We'll be right back. keep his feet off the street. All the poor boy blues can't get no relief. And don't step on the cracks to keep the goddamn police off his back when it's hard when he's black. Questi erano i The Nude Party, dico bene, sì, ma Poor Boy Walking Blues. Finalmente, finalmente. Vedi, mi mancava, guarda, una pronuncia così. Questo disannuncio. Allora, questa è Shyamalan, la nuova trasmissione. Allora, signori, questa è Shyamalan, la nuova trasmissione. La regista ci dice di stare più vicini. Che ma sarà bellissimo. Pubblico che entra, pubblico che va, puoi andare dove vuoi. E pensate, c'è bello. Gente che ha fatto anche... Questo locale, sì, sì. C'è esatto. Gente che ha fatto anche della strada per venire a ha vederci. Sfidato le intemperie e la pioggia per arrivare fino a qui da ogni dove. Allora, brevemente, che Bravi cos'è Shyamalan? Shyamalan è una trasmissione in cui chi ha qualcosa da dire o da proporre lo può fare. È un work in progress. Ci contatta, ammettiamo voi abbiate un evento da promuovere, oppure siete un gruppo musicale che vuol far sentire la propria musica. Se avete un'idea per cambiare il mondo. Marcello non la capirà questa musica, però non importa. Io ancora non ho capito il programma. Quindi... E il programma, come dicevamo, va a proporre eventi e varia umanità. Ecco, stasera iniziamo. Le nostre vittime sacrificali della serata sono Paolo Fanticelli, le cavie della prima serata, e Donato Carrieri. Buonasera a tutti. Ecco, chi sono? Per la prima puntata abbiamo scelto gente che è viaggia, forgiata, che va veloce. No, persone che sono forgiate dalle intemperie, dalla fatica, dallo sport per sopportare questa nuova avventura. Esatto, perché sono i protagonisti del gruppo sportivo Bike Project Foiano, e che è un gruppo che, come capirete dal nome, va a piedi. È appassionato di canoa, direi. Esatto. Stasera canoa, tra l'altro, e praticamente stanno organizzando un evento molto importante, molto importante, molto ambizioso, ma io direi di prima di parlare di questo evento cerchiamo di capire, di far parlare i nostri ospiti su quello che già è stato ed è la Bike Project di Foiano, perché ha già un passato importante. Io direi iniziamo intanto con qual è il vostro ruolo all'interno della Bike Project. Allora, il nostro ruolo, io e Paolo facciamo parte del comitato che si occupa, un gruppo ristretto di circa 12 persone che si occupa di quello che è l'organizzazione, di mettere in moto un po' tutte quelle che sono le varie discipline all'interno della società, organizzare cene, che è una cosa importante, questo, primario. Noi siamo nati per fare le cene, la bicicletta è venuta successivamente, anzi è stata la scusa per guarda, creare... Scusa Donato, mi segno già che ti devo dare un premio per la sincerità, premio sincerità di questa sera. E quindi io e Paolo siamo all'interno del gruppo, lui si occupa di tutta quella che è la parte, diciamo, di dialettica, dell'aspetto commerciale, dell'aspetto esattamente delle pubbliche relazioni. Io invece mi occupo di una cosa più basica, mi occupo del magazzino, gestione di tutti quelli che sono gli aspetti tecnici dell'abbigliamento e tutto quanto. Poi, te saresti lo stilista, insomma. No, io gestisco lo stilista, lo stilista l'ha già fatto. Ecco, qualcuno pedala anche? Farei parlare Paolo. No, allora, devo fare una premessa, perché lui ha spiegato i ruoli ma non ha spiegato di cosa si occupa il Bike Project. Esatto, mi sembra giusto. Come ha detto lui giustamente, siamo nati al ristorante, cioè ci siamo trovati una sera a mangiare una pizza e lì poi parlando è venuto fuori che qualcuno di noi andava anche in bicicletta. Per smaltire i postumi della cena. Qualcuno più forte, qualcuno non andava un tubo, però insomma tutti si andava in bicicletta. Quindi da lì è venuto fuori l'idea di creare questo gruppo sportivo. Bike Project è un gruppo ciclistico. Ok. In secondo luogo, in primo luogo si mangia. Si mangia, sì, sì, okay. No, ma questo. Perfetto, quindi diciamo siamo nati proprio, siamo dedicati alla bicicletta. Abbiamo organizzato per domani e l'altro, tempo permettendo. Bravo. Diciamo, la faremo comunque. Una gara di canoa. Una gara di canoa a squadre nel Foenna. No, abbiamo organizzato una gara di mountain bike che abbiamo denominato MTB Scannagallo Bike, esatto, 2016. Bravo. Okay. Prima di voglio fare una prova intanto, scusatemi, vediamo se il pubblico è attento. Applausi. Ci ha voluto il suggerimento. Un sogno chi si realizza per me, scusate, ma l'assistente di studio, sì. Tra l'altro vorrei invitare tutti gli amici, scusa Valeria se puoi inquadrarmi, a mettere like sulla pagina di Piazzalta, e questo è amore, perché mettendo like è amore. Quello è cuore di bombole. No, assolutamente, assolutamente no. Ragazzi, bisogna essere obiettivi. Assolutamente. Tornando a noi, prima di parlare della gara, che sarà la parte più importante della nostra chiacchierata, vi vorrei fare delle domande, se le ritrovo fra tutti questi fogli, che mi sono preparato negli scorsi 20 giorni, perché noi la prepariamo in 20 giorni una puntata, certo, un'ora infatti fa. Infatti va molto, diciamo, sì, sono in scioltezza la nostra preparazione. Allora, avete detto innanzitutto da quanti anni siete insieme? Un anno. Quindi il club, il gruppo è giovanissimo. Sì, siamo nati praticamente un anno e mezzo fa e siamo proprio freschi di nascita. Quanti siete come soci? Allora, siamo partiti in una 15-20, l'idea è stata questa, e a oggi siamo una 60 di iscritti. Ecco, tutti che vanno in bicicletta o tutti che mangiano? Allora, tutti che mangiano sicuro, qualcuno va in bicicletta, la maggior parte va in bicicletta, e qualcuno, diciamo, tipo me, fa le gare. Qualcuno, ecco, questa tanto, infatti era la domanda più scabrosa della serata. Se passiamo questa che sto per fare, siamo poi. Chi è il più bravo? Ci prepariamo. Chi è il più forte o comunque i più forti e chi sono i meno forti? Non vorrei tirarmela, ma come tutti sanno sono io quello che è più forte a cadere. Ma allora, questo va, potranno, se sei qui, Paolo sei potrà anche dare il più forte a rialzarti. Quello sì. Allora, volevo raccontare un piccolo aneddoto. Devi. Ovviamente in mountain bike e in bici è facile cadere, però qui abbiamo proprio il classico esempio di una persona che è riuscita a cadere anche sui ruli di allenamento in casa. Cioè, era talmente tanta la foga di allenarsi che a un certo punto ha perso l'equilibrio, è caduto con la bicicletta e ha visto come succede. Mettiamo il programmino della bici nel PC, lui si vocifera che l'aveva appoggiato sopra l'asse da stiro, perché ovviamente in casa ci si arrangia. Allora lui, nella foga di cercare di allenarsi per battere me, che non ci arriverà mai, ha perso l'equilibrio, è caduto con la bicicletta, l'asse da stiro, il computer, e quindi la sua moglie. È vero che con la rincorsa ha fatto cucina e camera. Senza toccare. Più che altro mia moglie si è catapultata da sopra dicendo: ma che sta succedendo? E mi ha trovato sommerso da computer, asse da stiro, bicicletta, dicendo: tu non capisci niente. No. Poi, siccome qui c'è un po' l'abitudine, diciamo, di allenarsi un po' di nascosto, quindi se vede, sì, uscire, certo, gente, baffi finti, barbe finte, capito, occhiali da sole. Lui un giorno che si voleva allenare senza farlo sapere è uscito dal piazzale di casa sua, 30 metri, piazzale sterrato, ha frenato, una musata per terra. Caso ha voluto che è passato uno di noi in quel momento, quindi non l'ha fatta franca neanche quella dura, volta. Dura la vita. La vita del ciclista è questa, quindi noi non possiamo esimerci, sì, da condurre scusami, una vita... quella del ciclista, ma non è la tua, quella, la vita, cioè parliamoci chiari. Perché scusa, dovevo dire i ruoli. Allora, io sono, giusto, il capitano della squadra di mountain bike, quindi mi occupo di quel settore là. Lui è il capitano, dice, della squadra degli stradisti, okay, di quelli che vanno su strada, e con la delega anche alle musate per terra. Sì, lui su quello se la cava benissimo, se la cava benissimo, sì. Questi sono i nostri due ruoli. Mentre avrete un presidente, vogliamo ricordare qualche carica? Abbiamo un presidente che è stato, diciamo, il promotore, il fautore dell'organizzazione di questo club, che è Gabriele Marini, che è tuttora il nostro presidente, un po', diciamo, il coordinatore. Poi abbiamo tante altre cariche. Parti da Piscio, vai. Piscio si occupa di fare la pasta, mi sembra, quindi che per iniziare bene la sera. Ogni volta che si organizza una cena tutti vanno da lui a prenotarsi, perché dicono magari ci scapperà qualche piscio, ma... Allora, io ti suggerisco i componenti del comitato e te descrivi il ruolo. Perfetto. Roberto Mencarelli si occupa di tutto quello che riguarda la parte amministrativa burocratica, quindi tutto quello che sono i contatti con le varie società, federazioni, associazioni tipo WISP, tutto quello che riguarda, perfetto, i tesseramenti. Quello non si può dire. Perfetto. Poi abbiamo Marco Petricci, il nostro webmaster, tutto quello, lui si occupa del nostro sito internet, ha creato il sito internet, tutto quello che riguarda l'aspetto web. Poi, quindi l'esperto digitale è Marco Petricci, esattamente. Sì. Poi abbiamo la nostra Avelina, la nostra mascotte, quella che pensa a tutto il Facebook e tutti i social network, che è la Stefania Morelli. Perfetto. Che si occupa appunto della pagina Facebook e di tutto quello che riguarda le notizie da mettere sulla pagina per novità, ritrovi e via dicendo. Poi abbiamo il nostro tuttofare, Francesco Fantozzi. Francesco Fantozzi è quello che fa tutto praticamente. Tu puoi chiedergli qualsiasi cosa, lui la fa, a prescindere. Poi abbiamo Stefano degli Innocenti. Stefano degli Innocenti è l'aiutante che ci dà una mano anche lui a fare tutto quello che serve per la logistica e tutto quanto. Poi abbiamo il nostro Gattino Nero. Gattino Nero, sì, è un ragazzo che... Gattino Nero, perché purtroppo i gatti lui li acciacca tutti lungo la strada, quindi... Credevo che fosse un amuleto che da mettere in strada sui concorrenti, no? Dice, facciamo traversare il Gattino Nero. No, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, sì. Mettiamo ancora un po' di musica e poi torniamo ancora a parlare di Bike Project Foiano, dei componenti e poi dello sport migliore. Ecco, una banalità, me l'ero segnata, ma la Bike Project con gli Alan Parson Project, c'entra come niente. Si impongono? Sono cugini, come quelli di campagna. Ok, grazie. Benissimo. Music. Adesso, ovviamente, in questo tipo di programma può capitare che mentre uno va in diretta altri facciano beatamente i fatti loro urlando, ma funziona così. Eravamo pronti, eravamo assolutamente pronti a questo. Questo è Shabalon. Vi ricordo che stiamo andando in diretta video, a parte quando ogni tanto la linea ci tradisce. E quello che sentite, se lo state riascoltando nelle giornate di sabato, domenica, lunedì, martedì, vuol dire che è il podcast che state ascoltando. Shabalon è la nuova trasmissione che Marcello andrà a spiegarvi. Sì, no, non ve la spiegherò perché va solo vista, va solo vissuta e ascoltata. Volevo dire che chi ci segue in diretta, se avesse voglia o diciamo quello che delle curiosità, ce le può anche in diretta assolutamente tramite messaggio può mandarcele e noi risponderemo praticamente a tutto. Sono qui un po' per questo, tra l'altro, perché... ecco, sono anche pronti a rispondere su domande di cultura generale, perché tra l'altro, ecco, volevo sapere, abbiamo finito con l'elenco delle persone che hanno delle cariche all'interno dell'associazione? No, della bike, ancora c'è qualcuno, c'è Robiscali, c'è il Marini Robiscali Emanuele. Che presumo sia il ragazzo immagine, visto esattamente, che esattamente del nostro volantino è il porno star del gruppo. Ecco, ma il cespuglio qui chi lo fa, chi è? Ma in realtà, diciamo, questo è un fotomontaggio, cioè qui siamo tranquillamente in Foiana, ci abbiamo messo dietro un'ambientazione boschiva, quindi perché non ci riesce a fare queste cose? Però c'è da apprezzare la sincerità, che è totale, che è totale. Perché la sgommata è costruita. Allora, e proprio, visto che ormai siamo passati al volantino, sì, vogliamo iniziare? No, sì, mi permetti, anzi, io ho una curiosità, ma io che sono un grande sportivo, e si vede, insomma, però non ho mai praticato la mountain bike, è uno sport faticoso? Rischioso, abbiamo capito di sì. Sì, diciamo, ora, a parte gli scherzi, gente, diciamo, con gli attributi fa la mountain bike, gente che non vuole tanti problemi fa la strada. Ecco, questa è un po' la distinzione tra queste due discipline. Ogni riferimento, ecco, a persone veramente casuale. Ora, per caso mi sono trovato Donato. C'è una distinzione anche tra Consellino e Senza? No, allora, noi preferiamo Consellino, sicuramente. Comunque la mountain bike, diciamo, è uno sport un po' più articolato, diciamo, un pochino più complicato, perché si va su percorsi sconnessi, si va nei boschi, diciamo, per certi versi è più bello perché ti permette di vedere posti che normalmente non potresti visitare a piedi o con la macchina. Quindi a me, per esempio, è la disciplina che piace più rispetto alla strada. Ecco, ma capita anche di riportare cesti di funghi? Potrebbe capitare di riportare anche cesti di funghi, perché come ho detto, insomma, si arriva in dei posti che difficilmente le persone a piedi raggiungono. Però a parte le battute che bisogna fare anche sfogare, Marcello, come ci mancherebbe, no, altro. No, volevo dire, quanti siete quelli che veramente gareggiano? Sappiamo che tu sei il più forte, ormai l'abbiamo capito, Paolo. Si vede. La stagione. Donato, veramente la stagione ci uccide, veramente. Io onestamente questa affermazione è assurda. Ma basta guardare le classifiche, è assolutamente falsa e tendenziosa. Basta girare il foglio e vedi qual è l'ordine di arrivo. Allora, a parte gli scherzi, diciamo che 10-12 persone hanno quasi partecipato a tutte le gare del trofeo Colli e Valli. È stata bella la prima gara, in quanto a Castiglione del Lago ci siamo presentati in 23-24. Praticamente eravamo un terzo dei partecipanti della gara. Quindi c'era una macchia rossa che si spostava lungo il lago Trasimeno. Ed è stato in quel momento che hanno pensato: a Foiano c'è qualcosa di grave. Sì, infatti, andiamo a controllare. Corsa su. C'è un esodo. No, questo circuito Colli e Valli funziona così: sono 12 gare, è un circuito interprovinciale Arezzo Siena Perugia. Noi quest'anno all'esordio l'abbiamo vinto come squadra, quindi abbiamo vinto la classifica a squadre, okay, proprio perché partecipavamo sempre numerosi e arrivando a punti siamo riusciti, certo, a raccogliere una serie di punti e siamo diventati, quindi, irraggiungibili. Il primo anno da protagonisti. Assolutamente sì. Tant'è vero che questa gara che organizziamo domenica vorrà, se ci riusciremo, essere una sorta di prova per cercare di entrare nel circuito il prossimo anno e organizzare una gara di questo circuito a Foiano. Ecco, allora veniamo a questa gara. Abbiamo detto che si chiama la Scan MTB Scanna Gallo 2016. Perfetto. Raccontateci un po' quando è, domenica, a che ore parte, qual è il circuito, quanti pensate possano essere. Sappiamo che dipende anche dal tempo. Io ho proprio delle domande specifiche. Allora fermi. No, è importante. No, le devo fare mentre... Noi abbiamo delle risposte specifiche. Molto allora, guarda, teniamo noi il microfono così man mano ci spostiamo. Vai, inizia con la prima domanda. Devo fare in corso di spiegazione. Allora, rapidamente, la gara si chiama MTB Scannagallo Cup proprio in onore del territorio dove si svolgerà. Quindi la vallata di Scannagallo, che è ormai il territorio famoso, certo, per la famosa battaglia dei senesi dei fiorentini in epoca medievale. Ah, ecco. Credevo che avesse a che fare anche con la culinaria, anche questo, anche no, Marcello, no, si vede che è uno sportivo. In realtà qui siamo stati un pochino più, diciamo, accorti, quindi siamo stati un po' più di cultura. Quindi la gara sarà domenica prossima, 16 ottobre, partiremo alle 9:30 precise dal circolo di Renzino, un breve tratto guidato, una partenza lanciata lungo la salita di via d'Arezzo e nel viale Umberto I. Ecco, lanciata. Ecco, no, ho una domanda, perché nella presentazione della gara leggo testualmente da dati forniti dall'organizzazione: trasferimento a velocità controllata. Ecco, mi inquieta un po'. Che velocità vengono raggiunte? No, allora, cosa facciamo nella velocità controllata? Cerchiamo di guidare il gruppo su strade trafficate, quindi su strade asfaltate, per arrivare in un punto dove poi possiamo dargli il via ufficiale, e di solito si sceglie un punto dove è possibile fare selezione. Tant'è vero che noi partiamo dal circolo fino alla rotonda della discesa della via d'Arezzo, lì in salita, ovviamente sono circa 400-500 metri di salita, faremo la selezione per evitare, per evitare di fare il gruppo troppo compatto. La famosa spezza gambe non ha niente a che vedere la velocità controllata con l'alcol test. No, quello no. Ci tranquillizzate. No, noi abbiamo altri problemi nel ciclismo. L'alcol non test ci verrà fatto post-gara, secondo post-gara, me. Sì. Quindi quando arriviamo praticamente all'altezza dell'ospedale, lì entriamo nel circuito che è il sentiero di San Francesco, quello che è possibile percorrere anche a piedi. Abbiamo creato un anello che attraverso la vallata di Scannagallo arriva fino al pozzo, questo anello ritorna e rientra esattamente nello stesso punto nel quale noi lasciamo l'asfalto ed entriamo. Quest'anello è lungo circa 9,5 km, lo percorriamo 3 volte, dopodiché all'ultimo passaggio veniamo nel centro storico, percorriamo il corso via Cesare Battisti. Ecco, di com'è l'arrivo, perché è meraviglioso. L'arrivo lo sveliamo in diretta perché è una cosa secondo noi spettacolare. Quindi entriamo nel centro storico, percorriamo parte del corso centrale via Cesare Battisti, curva secca a sinistra per la salita di via Ricasoli, attraversiamo Piazza Alta. Quindi noi ci attraversate. Vi attraversiamo e sotto la torre delle scalinate scendiamo le scalinate, in fondo alle scalinate, curva secca a sinistra, 100 metri, il traguardo è previsto all'altezza delle logge del grano di Corso Vittorio Emanuele e lì finisce la gara. Io direi che solo questo vale la pena di essere seguito in diretta. Esatto, i superstiti poi andranno a premio. Ma tra l'altro mi permetto di dire una cosa, questa gara, che è già meravigliosa per come l'ha descritta Paolo, avrà anche un'altra fortuna, che ha di avere due speaker alla partenza di primo e livello, all'arrivo, certo, che sono Enzo e Marcello. Assolutamente. Che chiaramente faranno la telecronaca per tutti e tre i giri, proprio in bicicletta. In bici. No, li abbiamo scelti dopo selezione. Io vorrei dire di più: noi abbiamo fatto la gara sapendo che c'erano due speaker che volevano commentare una gara, sì, se no l'avremmo fatta. E guardate, noi abbiamo detto di no al Gran Premio, non so di dove. Noi abbiamo Monte Carlo di Formula 1. Noi abbiamo dei. Ecco che la luce ci stasera tutto, siamo ancora in onda da tutte le parti. Perfetto. Benissimo. Noi abbiamo del De Zan che perché era arriva. Quanti minuti abbiamo fatto, caro Simone? 8 minuti. Vogliamo inquadrare Simone che si è rimesso le cuffie apposta. Simone con gli orecchi. E grazie Simone. Allora mettiamo ancora un po' di musica e poi continuiamo a parlare dei mountain bike e anche dei pranzi di Marcello. siamo in diretta anche audio con Shabalon, la nuova trasmissione di Piazza Alta. Marcello, sempre più confuso ma sempre più felice. Sempre meno presente a me stesso. Io, siccome ho avuto anche un po' la fortuna di seguire le prestazioni e diciamo serata magica, via la luce, torna in continuazione. Siamo sempre i momenti che hanno portato, diciamo, a questo evento che ci sarà domenica. Volevo chiedere proprio qualche cosa, perché so che chiaramente il percorso è tipicamente campestre e si entra anche in campagna, si costeggiano magari i poderi di contadini. Non ti risciupano gli olivi, stai tranquillo. No, il mio non è probabilmente è questo il problema che ha. Ho visto che ci sono delle postazioni che secondo me il contadino si ferma a vedere quando passate, perché vuol vedere se ce la fate veramente ad andare oltre la sua proprietà. È vero o no? No, allora, la maggior parte del percorso, diciamo, interessa delle strade pubbliche, delle strade vicinali, proprio perché era problematico andare a chiedere poi tutte le varie autorizzazioni. Alcune porzioni rientrano nelle proprietà private. Abbiamo trovato un paio di boschettini che ce l'abbiamo sotto casa, neanche ne conoscevamo l'esistenza. Immagino. Abbiamo sistemati per bene, abbiamo creato tutti i nostri zig zag per bene. Ecco, è un percorso che in 33-34 chilometri, sembra strano, ma nella nostra vallata siamo riusciti a fare un dislivello, che significa metri in salita, di circa 950 metri. Però non è poco, è un percorso non proprio facile da fare, perché ci sono delle belle salite. Certo, mi viene da fare qualche domanda, mi perdonerai Marcello se ne hai facoltà. Le tue intelligenti, ma le mie, diciamo, più terra terra. Se ti sono sembrate intelligenti, ho sbagliato? No, ma infatti, a parte una domanda che voleva fare Marcello e si vergogna a fare: in percentuali che coltivazioni avete trovato? Ma questa non è in realtà io volevo arrivare da un'altra parte, perché uniforme la zolla, perché siccome questo è uno sport che, come ho potuto notare e verificare, coinvolge, no? Quindi si inizia anche per la cena, per l'amicizia, per la conoscenza, però poi dopo ti prende, dopo c'entra il pepe e per allenarsi, appunto, magari può capitare, oltre che cadere davanti casa, un avventore che sta passando fuori dentro. Fra 5 minuti fa la domanda, non vi preoccupate. Vabbè. Questa è la premessa. Ecco, a questo punto non mi ricordo che ti volevo chiedere. Ma io ci credo, allora ne faccio. Me lo ricordo nel senso che so che ci sono stati anche degli episodi veramente esilaranti, perché si sono conclusi bene, ma in cui dei novizi si sono, diciamo così, prodigati in capitomboli e immagini, scusa, se lui dicesse no, non mi risulta. Ma cioè, io ho le foto, quello che io ho il supporto fotografico, quindi sono sicuro di questo. No, Paolo invece si è prenotato. No, allora, a me mi risulta, perché senza fare nomi, perché non sta bene, Massimo Biribicchi, quando io l'ho portato la prima volta, no, perché si tratteneva. È quella foto con la bici sopra? È quella della foto con la bici cappottata, esattamente cappottata. Quando l'ho portata a fare un girettino super tranquillo, che lui, ma quando è arrivato a casa, ha detto basta, io queste salite non le reggo più. Dico, Massimo, abbiamo fatto un cavalcavia, cioè quali salite? Quindi quando siamo arrivati in Forno San Piero c'era da superare un fossettino, non esagero, erano 10 centimetri, tranquillo, e l'attraverso. Dopo 10 metri sento pu, mi giro, sdraiato, spalmato come la pelle del leone, e la bicicletta completamente cappottata. Ma la cosa bellissima è che dietro questa situazione veramente preoccupante e incresciosa c'era, nella foto che ho visto io, una sedia che io ho riscontrato. Dico, questa ce l'ha messa il contadino, perché qui ribaltano tutti. Ah, ecco, era proprio un posto d'osservazione, sì, esatto. Un papagamento. Qualcuno fa il capanno per i fagiani, c'è qualcuno contadino che guarda per i ciclisti. No, tanto è vero che domenica lui avrebbe voluto partecipare, ma noi gli abbiamo attribuito una postazione di controllo. Infatti, la prossima... Mi dice che non ha la copertura infortuni in questo periodo. Quindi... ma infatti lui non si deve infortunare, lui deve stare attento al traffico e fermare le macchine. Ne basta, non deve. Infatti, toccare volevo altro. Chiedere, e mi dispiace fare delle domande serie, perché c'ho Marcello in grande forma. No, assolutamente. Volevo chiedervi quante persone sono impegnate realmente la domenica durante la gara. Questa è una domanda troppo seria, passiamola a quell'altra. Allora, minimo, secondo i nostri calcoli, sono 30-35 persone, che sono tutti, ci teniamo a precisare, volontari, certo, che si sono offerti spontaneamente per darci una mano. ce ne saranno circa 20-22 lungo il percorso, quindi per quanto riguarda indirizzare i ciclisti, evitare che macchine possano uscire all'improvviso, più i vari punti di ristoro che sono posizionati al Pozzo e a Foiano della Chiana per l'arrivo. Tra l'altro, Donato, mi risulta anche che oltre ai vostri componenti, i volontari che citavi te sono anche membri o appartenenti ad altre associazioni. Dell'Avis, dove loro sono offerti veramente gentilissimi per darci una mano, gente di altre società ciclistiche, perché ci sono due o tre foianesi che corrono per altre parti, però... Quindi, una mano, quindi è un evento che è comunque sentito, anche se è alla prima edizione, già tante persone ne riconoscono, diciamo, l'importanza e, diciamo, a livello organizzativo l'importanza che venga bene. No, quello sicuramente, anche perché comunque molti foianesi, nonostante che io non sono un foianese, io sono un foianese importato, sento dire molte volte che tra foianesi sono tutti abbastanza divisi, ma io ancora c'ho da capirlo, dopo 25 anni ancora c'ho da capirlo, però molte volte dici, sento dire foianesi che magari sono un po' divise tra di loro. No, c'era lui che mi ha affittato nel lontano 1997. Pensa un pochino. Data del sequestro, ti ha sequestrato praticamente. Ragazzo, l'ho inventato io a Foiano. Ecco, diciamo la verità. Ecco, comunque, diciamo che questo evento ha fortificato tutti i foianesi per cercare di portarlo a termine nel miglior modo possibile. Benissimo. Io hai delle domande. Continuo con delle domande tecniche, ma perché rilasciandomi al discorso di Donato, un ringraziamento anche a tutto quello che è la pubblica assistenza e l'Avis Foiano, perché noi in questo percorso comunque abbastanza breve abbiamo 3 ambulanze dislocate nei punti strategici, abbiamo distribuito tutti i numeri di telefono dei volontari dell'ambulanza, abbiamo defibrillatore, medico a bordo, volontari, quindi qualunque imprevisto dovesse succedere in pochissimi minuti ogni ambulanza sa qual è il punto dove è successo l'infortunio, abbiamo numerato tutti i punti di controllo, quindi ecco veramente un ringraziamento alla logistica e a tutte le persone che ci hanno dato una mano, perché speriamo non succeda mai niente, però la sicurezza prima di tutto. Quello sicuramente, e poi la persona che io so già chi è, che con la bombola d'ossigeno personalizzata per lui, perché sapremo che la prima salita lui si inchioderà e di conseguenza avrà la bombola d'ossigeno personalizzata esclusivamente con... Cioè, non si può raccontare queste cose. Ma no, dunque, perché... Tu correrai, Paolo. Ovvio. No, cioè, allora aspetta, ma diciamo le cose come stanno. Scusa, Marco. L'arrivo sia previsto anche. Correrai, scusami, Marcello, prego. È una parola un po' grossa. No, ma pare che. Parliamo delle nove colli, eh. Per la sua forma fisica, pare che all'arrivo sia previsto anche un pastore per l'acido lattico che dovrà essere. No, a me veramente per correre forte mi ci vorrebbe un pastore mare in mano dietro. Tipo quello su alla Libia. Perfetto, tipo quello. Ma diciamo la verità, tutta questa gara, Paolo, se l'è organizzata perché aveva voglia di correre a Foiano. Ma è normale, dai. Per Foiano bisogna fare qualche cosa. Una cosa del genere non c'è mai stata. Ripeto, purtroppo il tempo non ci aiuterà, però una domenica mattina, un paio d'ore, impegnare il centro storico con un'organizzazione del genere, con tutta la pubblicità. Comunque Paolo, scusa se devo smentirti, è una tipica stagione, infatti, è un po' umido ma spenge la polvere in questo caso. Ho schiacciato 20 la notte nel percorso. Paolo, oggi, mentre diceva la stagione non ci aiuterà, non l'avete sentito, è stato un tuono sì, allucinante. Ma noi andremo avanti lo certo stesso. Faccio ancora una domanda, ce l'hai una domanda, Marco? No, stavo immaginando l'arrivo, perché se continua così arrivano puliti proprio. No, in realtà si tratta di una gara di triathlon, cioè fanno una parte in bicicletta, una parte a nuoto molto una... a piedi, è molto a piedi e l'ultima parte è la fratta, mi sa che si farà. Quanto siamo, Simo, tu che 8 minuti. Invece il percorso di quanti chilometri trattano? Prevediamo due percorsi, abbiamo un percorso da 33-34 chilometri che prevede 3 giri del circuito e obbligatoriamente dobbiamo prevedere anche un percorso più corto che per lui. Per lui, perdonato. Io non corro, io no, non corro, quella era io la non terza corro. Opzione, stare a casa, che è quella che farà lui. Un percorso più corto destinato alle donne soprattutto, che sarà di circa 25 km, che prevede 2 giri del circuito. Non indicativamente, a che ore sarà la partenza? Partenza esattamente alle 9:30, ai ritmi di quelli che corrono più forte si prevede che i primi ciclisti arriveranno intorno alle 11. Io credo che in un'ora e mezzo il circuito e i più forti lo possono fare. Ok, allora prima di parlare quindi della anche fine, per chi vuole partecipare anche soltanto come spettatore, dalle 9:30 in poi, tra l'altro ci sarà un finale interessante, ma quello lo diciamo dopo questo brano che Simone Oneone esatto, proprio qualcosa del genere andrà a mettere adesso. We'll be right back. sophisticated. Sempre Shyamalan in onda, mi sembra adeguato. E adesso saremo, fra poco saremo proprio in onda, perché vabbè, ma non importa, saremo inondati da un leggerissimo acquazzone, ma il pubblico presente in questo momento, no, cioè uno stava bevendo, si sta strafogando di birra il pubblico presente. Grazie. Perché se venite qua a vedere Shyamalan potete anche degustare delle splendide... Oltre ad apportare il vostro contributo positivo, se avete delle idee, delle cose da dire... Anche Marcello da mandare via, cioè dipende... Per esempio, io non sono attaccato alla poltrona. Ci sei seduto. Dicevo, Shyamalan è un nuovo esperimento che stiamo facendo da questa sera, lo studiavamo da anni e finalmente ci siamo arrivati. Iniziamo alla grande con il botto, ma soprattutto Biribicchi Massimo col botto, da quello che capisco gli fa... No. E parliamo appunto di mountain bike con Dopo another bike to dust. Aspetta, ridillo. No, another bike to dust. La bike project di Foiano. Ti è venuta benissimo. Oh, io sarei curioso. Sei rosso, eh? Inquadralo bene perché Temperatura. Io non so se volete. Siamo anche sempre con Paolo. Con Paolo Donato, bravo, la bike basta. Project di Foiano. E via via. Cioè, e via, e via. Avete dei messaggi anche da mandare? Il codice. Oltre, no, nel senso che. La quercia. È meglio di no. No, perché è interessante anche. L'acqua è calda. E la papera non galleggia. È interessante il fatto che comunque questa gara di domenica possa essere inquadrata anche in qualcosa di più, diciamo, che vada oltre il territorio foianese. Te la traduco? Allora, do una risposta a caso, tanto non ho capito la domanda. Anche la domanda era fatta a caso. Quindi. Allora, cerco di interpretare la domanda. Allora, la gara si svolge tutta all'interno del territorio foianese, punto. Quindi, poi, se vogliamo un po' allargare. Come organizzazione? Se vogliamo un po' allargare, parliamo in generale del Bike Project. Quindi, invitiamo chi è un amante della bicicletta, della buona compagnia, chi è una buona forchetta, la buona gastronomia, perché si è capito che insomma, certo, qui in bici poco, in pizzeria molto, tanto, ad unirsi al nostro gruppo, perché noi, come dice il nostro amico, siamo il gruppo dei raccattati, cioè provenienti da vari gruppi, scarti di altri gruppi, e noi ci teniamo insomma a dirlo, siamo un gruppo di amici, andiamo avanti e no, mi piace, io vorrei fare il microfono. Facciamo un applauso a Paolo perché è la prima volta che un ospite. Qual era la domanda? No, hai una risposto, volta che guarda, un ospite ha fatto meglio della domanda, cioè la risposta è stata meglio della domanda. La prima domanda. Ma nessuno, ma probabilmente nemmeno lui. Guarda, se era in forma interrogativa è sbagliato. Lui voleva dire una cosa a caso, gli è venuta in forma interrogativa. Ci tra l'altro io sono anche abbastanza, diciamo, anaespressivo. Non mi piace, ma no, ma non domande, io rispondo. Ecco, ma non mi piace farmi fatti degli altri. Il microfono. Sì, sì. Quindi le domande ne faccio. Lo stesso. Okay. È una tecnologia avanzatissima. Perfetto. No, volevo chiedervi invece io, una volta arrivati in fondo, no? A parte il fatto che questi meravigliosi speaker che aspetteranno qui gli atleti. Siamo ansiosi di vedere chi sarà quello che la mattinata farà lo speaker per tutto il percorso. Bravo, così. Ma per la premiazione so avete speaker previsto... farà in bici tutto il percorso, mi hanno detto. Chiaro. Uno dei due. E basta. No. No, però alla fine. Ma c'è una domanda, quella di prima. Voi, aspetta, sì, scusate, eh. Se, dove sei? Cosa inquadro? Lo inquadro. No. Fai una domanda. Oltre. Oltre agli speaker è previsto anche, non lo so, come al non Giro so. d'Italia, non lo so, io mi fermerei, non lo so. France, delle, qualcuno che faccia le premiazioni. Allora, traduco, si parla di, ho capito la parola premiazione. Sì, vai, grazie. Ovviamente ci sarà una premiazione, ma non solo, con la quota di iscrizione sarà consegnato un ricco pacco gara, che darà diritto anche a partecipare al pasta party. Fermi tutti, e questo lo devi spiegare benissimo. Fondamentale, quindi iscrizione, pacco gara, nutrito pacco gara con tutti i gadget e cosettine simpatiche, poi all'arrivo docce, possibilità di poter lavare la bicicletta e penso che ce ne sarà bisogno, pasta party, antipasto primo, quindi tutto sistemato per bene giù nei locali del circolo di Renzino, e poi visto che il giorno della gara coincide esattamente con i mondiali di ciclismo su strada, abbiamo allestito un maxi schermo e nel momento del pasta party proiettiamo anche i mondiali di ciclismo, che speriamo abbiano un esito per l'Italia. Infatti la domanda era: li guardate i mondiali di ciclismo? Alla premessa a tutto questo, cioè praticamente la risposta, se avevi messo il televisore, volevo aggiungere che poi ci sarà anche una lotteria dove consegneremo dei gadget che ci ha dato il nostro sponsor tecnico Atacama nella persona di Marini Stefano, e che daremo, ognuno di loro avrà un bigliettino che poi a fine gara ci sarà un'estrazione dove daremo questi regali. Non solo, poi abbiamo predisposto anche dei premi, sono dei premi che vanno dall'assoluto, quindi qui ai primi tre che vinceranno la gara, a tutti i vari premi di categoria che sono classificati in base all'età, e poi avremo anche delle coppe, l'estrazione della capicolli anche. Sì, capicolli, diciamo, ovviamente si ricade sempre là tutto sulla parte gastronomica, ecco. Io ammiro Paolo, qui la situazione è questa, c'è Marcello che dice delle cose inusitate, cioè non lo sa, sì, nemmeno lui, quello che viene Paolo in mente. Che cerca di dare delle risposte alle non domande e riporta tutto su una questione tecnica, sì, vorrei parlare e poi di bici, ma poi arriva lui che si arriva al capocollo, quindi Paolo, complimenti perché stai facendo miracoli. Lo spirito è quello, quindi, zitti, ecco. Tutti zitti. Ho un'altra domanda. Beh, mi preparo. Noi eravamo ansiosi di questo, Marcello, dici tutto. Ecco, io vorrei andare un attimo sull'aspetto della sofferenza del ciclista. Della sofferenza tua e anche di Paolo. Scusa, no, volevo dire, a fine trasmissione, se te andavi a fare la bicicletta e lui veniva a fare la trasmissione. Se vuoi venire in bicicletta domenica mattina, io lo preferisco, Ecco, dicevo, è faticoso, si è capito che è faticoso. Avete mai visto dei santi durante... Oh, Madonne più che altro. Sì, ecco, sul percorso. Più che viste... No, richiamate, ma noi ci interessa il lato... Allora, Marcello, in realtà non si vedono dei santi, ci sono delle apparizioni. In qualche momento, quando veramente si spenge il lume, ci sono delle apparizioni. In quel momento dici... Ma chi me l'ha fatto fare? Stamattina potevo stare a letto tranquillo, mi sono venuto a prendere il fango, l'acqua, la fatica e tutto il resto. Qualche volta, non lo nascondo, dopo l'arrivo mi sono sdraiato in terra, 5 minuti ero in catalessi. Questa è la realtà dei fatti. Guarda, mi suggeriscono, come se fossimo in 15, in 20. La regia. La bicicletta insegna cos'è la fatica. Cosa significa salire e scendere, non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune e nei dispiaceri. Chi l'ha detto? Donato. Questo è la frase che ho nel mio stato su WhatsApp, che rispecchia, guarda, secondo me benissimo quello che è la bicicletta. È veramente profonda, non la voglio sciupare. Sto però sottotitolo: in bicicletta bisogna anche starci in piedi. Perché io quelle poche volte che riesco a stare in piedi senza cadere, penso a questa frase, quindi dico: ma vado avanti, quindi è bello per quello. Io, a me dispiace perché veramente stanno arrivando le 11, invece starei delle ore ad ascoltare cose inaudite che dice lui. Un'ultima cosa, tanto per cambiare argomento, noi tutti gli anni facciamo anche una cena sociale, anzi certo, in realtà ne facciamo due, perché verso la metà di novembre organizziamo una cena che abbiamo denominato Monkey sta per scimmia. La scimmia cos'è? Quando uno cretta, in termine tecnico, certo, prende la scimmia. Ok. E praticamente è come se fosse il testamento del carnevale. Perfetto. Ma riferito ai ciclisti foranesi. Perfetto, quindi facciamo questa tutto cena. Quello che succede durante l'anno che ha provocato ilarità e risate generali diventerà motivo per fare la cena. Ci saranno le premiazioni, primo, secondo, terzo. Io sono onorato di aver vinto primo premio 2 anni fa e quest'anno probabilmente sarò tra i candidati anche per vincere. Quindi praticamente tra una quindicina di giorni organizziamo questa cena denominata Monkey, dove partecipano tutti gli amici anche dei gruppi vicini, non solamente quelli del Bike Project, e lì assegniamo la scimmia dell'anno. Il testimone passa di anno in anno. 2 anni fa l'ha preso Donato, non poteva essere che così, altrimenti l'anno scorso l'ha preso un altro nostro concittadino di nome Fastello, perfetto. E praticamente quest'anno abbiamo già del materiale abbastanza scottante da proiettare per candidare altre persone, ma potrebbero essere anche soldi per la scimmia. Certo. Questa è quella che organizzeremo tra una ventina di giorni. Poi nel mese di dicembre la classica cena degli auguri di Natale, quella è destinata a tutti gli iscritti del Bike Project e alle loro famiglie. Facciamo la cena degli auguri dove riportiamo tutto, diciamo, la partecipazione dell'anno, eccetera eccetera, e ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor. Quella è una festa di chiusura di fine anno dove ci facciamo gli certo auguri. Allora, benissimo, direi di andare con un altro brano, poi ci salutiamo ricordando orari e quant'altro della gara di domenica prossima e poi dando l'appuntamento la settimana prossima, ma questo è un altro discorso. Ora andiamo con un po' di musica che il nostro prode Simone manda. Back there. e torniamo per l'ultimo intervento. Io, Enzo, avrei mille domande, ma nessuna compiuta. Ma prima devo fare un paio di settimane di analisi, perché sei ottimista, perché due settimane sei veramente ottimista. Allora, questa era la prima puntata di Shabalon. Un nuovo esperimento di Piazza Alta che state ascoltando in questo momento o in diretta video oppure in podcast. Lo so che stasera l'ho detto 353 volte, ma era la prima volta, ce lo dobbiamo mettere in testa anche noi per primi. Marcello non lo capirà mai questo. Ma di che evidente. Scusa, non t'ho seguito. Appunto. Ma chi si parla? Esatto. E gli ospiti che si sono sacrificati e per fortuna hanno capito anche la problematica che avevamo e ci hanno coadiuvato. Non sono entrati qui perché fuori piove, avevano bisogno di un'alcova. Sì. Per no, loro sono ciclisti. E noi siamo venuti a bere. Ho visto Alcova, mi sembra una cosa un po'. Io capisco, voglio tanto bene a Paolo, ma un'alcova non mi sembra il caso. Vabbè, il genere horror. Potrebbe andare bene, questo sono d'accordo con te. Io gli incubi glieli faccio venire solo in bicicletta. E andiamo. Allora, chiudiamo dicendo, ricordando che gli amici della Bike Project di Foiano della Chiana, Paolo e Donato, sono stati qui stasera con noi per parlarci un po' della loro associazione, ma anche e soprattutto dell'evento di domenica, che Paolo andrà a ricordare dopo una domanda di Marcello. Ci vuoi ricordare l'evento di domenica? Ah, me l'hai fatto 8 volte questa domanda, lo ripeto. MTB Scannagallo Cup domenica 16 ottobre alle 9:30 partenza da Renzino. Ricchi premi, ricchi pacchi di gara, pasta party, night finale, eccetera, eccetera. Ma le ruote della bicicletta sono piene? No, le ruote della bicicletta sono piene di aria e di un liquido antiforatura. Vedi? E su questo. E su questo. Che chiamate ruote grasse. E sulle ruote grasse. Grazie, vi salutiamo. Ringraziamo tutti voi che siete stati all'ascolto con noi. Vi invitiamo a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, ma anche quella. Bike Project. Esatto, mettete mi piace. Ed ecco che con uno spontaneo applauso i nostri astanti benvenuti ci danno un saluto. Marcello, concludi te come sai fare te una trasmissione. No, un'affermazione. No, non mi provocare perché ero pronto, ma è un'altra storia. Prova, niente, no, vabbè. No. Simone, grazie per aver avuto pazienza. Soprattutto per la scelta musicale. Grazie a Valeria, grazie a Valeria, ma non staccare la diretta video, che dopo salutiamo anche gli amici in video. Alla grazie settimana Paolo. Prossima. Buonasera a tutti e grazie per averci ospitato. È stato un piacere non gli dare il microfono. Buonasera a tutti, ci vediamo domenica alla gara. Esatto. Allora, che dire, grazie. Io mi permetto per la prima volta di salutare il pubblico presente, Augusto, Ascanio e Alessio. La settimana prossima vengono quelli che hanno il nome che inizia con la B. Perché ed ecco, a posto così, grazie Babusto, sigla. Avete ascoltato o visto o comunque anche interpretato Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone e alle riprese video Valeria. Aria. Alla prossima!